da poi che morte trionfò nel volto, che di me stesso trionfar solea, e fu del nostro mondo il suo sol topo. Partissi quella dispietata irrea, pallida in vista, orribile e superba, che il lume di beltate spento avea. Quando, mirando intorno su per l'erba, vidi dall'altra parte giugner quella che trae l'uomo del sepolcro in vitil serba, quali in sul giorno un'amorosa stella sol venir d'orienti innanzi al sole che s'accompagna volentier con ella. Cotal venia e di quali scole verrà il maestro che le scriva pieno quel chi vuol dire in semplici parole. Era d'intorno il ciel tanto sereno che per tutto il desir cardea nel corpo, l'occhio mio non potea venir meno, scolpito per le fronti il valore dell'onorata gente, dove io scorsi monti di quei che legare vita. Gli occhi in prima posse, la bella donna aveva Cesare e Scipio, ma qual più pressa gran pena m'accorse. L'un di vertute non d'amor m'incipio, l'altro d'entrambi e poi mi fu mostrato. Dopo sì glorioso e bel principio, gente di ferro e di valore armata, siccome in Campidoglio al tempo antico, talora o per via sacra o per via lata, venivano tutti. Leggeasi a ciascuno intorno.